Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Benvenuti anche a quest'altra puntata del Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi va a mettere il naso nel mondo dei manga giapponesi, in questo universo del fumetto che è ancora molto vissuto e molto partecipato dai ragazzi. Il testimone d'eccezione è Claudio Onesti, più famoso perché come Claude, in arte Claude, uno dei maggiori fumettisti italiani che si è cimentato da Sturtruppen fino a Kativik, passando Nick Carter e quant'altri, che di recente è stato appunto in visita per motivi di lavoro ovviamente in Giappone e quindi ha conosciuto in prima persona il mondo dei manga. Quindi vediamo un po' com'è stato questo incontro tra la tradizione europea e quella giapponese e come si vive differentemente di qua e di là dall'oceano la questione fumetti e dei loro lettori. In studio un ospite importante, Claudio Onesti, più conosciuto come Claude, un disegnatore storico del fumetto italiano e non solo del fumetto, perché tra l'altro si è cimentato anche in TV e quant'altro. Quindi com'è andato questo incontro tra il disegnatore italiano e i manga giapponesi, Claude? È un mondo di manga. No, veramente là mettono il fumetto dappertutto, anche quasi nel bugiardino della medicina. Cioè dappertutto c'è il disegnino. Lo si compra dappertutto? Cioè, no, ma parlo dell'immagine. No? Utilizzano l'immagine, il pupazzetto, una cosa, in qualsiasi occasione c'è proprio, ma veramente non è in una maniera che qui potremmo definire esagerata, ma là in modo totale, dappertutto. In Giappone il fumetto cartone animato è secondo come prodotto interno lordo solo all'elettronica. Però, ecco, tanto per dire, c'è un settimanale là che esce, che è grande, poco più di una 4 come dimensioni, è alto, non sto esagerando, 4 dita, stampato in bianco e nero su cartaccia da giornale, proprio quella sottile, perciò sono diverse 700-800 pagine. Non è un prodotto raffinato? No, non è proprio neanche come carta igienica, come carta, cioè proprio cartaccia. Esce al lunedì, al mercoledì è esaurito, e sono centinaia di migliaia di copie. Costa 2 euro. Cioè 2000 yen, l'equivalente di più o meno 2 euro. E i lettori sono ragazzi giovani? Cioè, no, tutti. Tutti, grandi e piccoli. Li vedi in metropolitana, sono lì che leggono di tutte le età. Li leggono, è una cosa incredibile. Poi quando, e sono tutti episodi e puntate di personaggi famosi in Giappone, no? E quando la storia è finita, poi escono quelli che vengono da noi, sono i libricini su carta pregiata, c'è tutta la raccolta, ecco. E vendono poi anche quelli. Però per dire, quel giornale lì stravende, tutti lo comprano. Il cosiddetto mangaka, che si chiama mangaka, ka, cioè il judoka, è quello che fa judo, ka, quello che fa judo, karate, ka, quello che fa. Il mangaka è quel manga, quello che fa i fumetti. È quasi venerato. Cioè, veramente, qui, a meno che non siano i grandi nomi, no, che allora tutti addosso. Ugo Pratt, per dire. Ugo Pratt, Bombi, Manara, eccetera, Silver, eccetera, eccetera. Là il disegnatore, io mi sono sentito un dio, infatti non mi facevo chiamare Claudio ma Claudio. No, non è battuta, però no, scherzo a parte, però là basta che ti metti a disegnare. Di quando sono tornato ho avuto un incontro siamo andati con una delegazione anche all'ambasciata italiana in Giappone, così mi sono messo a disegnare lì, è stata una cosa, tutti intorno a guardare, no, tutti mi chiedevano i disegni, cioè italiani e giapponesi. Ecco, la differenza, cioè il tratto, quello, diciamo, possiamo dire occidentale e il tratto orientale, c'è una scuola comune, ci sono due scuole diverse che da qualche parte si incrociano? Ma ci sono dei disegnatori che sono di spicco proprio, però io credo che la maggior parte, diversamente dall'Occidente, la maggior parte sembrano quasi tutti usciti, non lo dico con critica, lo dico come constatazione proprio, cioè sembrano quasi tutti usciti dallo stesso studio, tutti allievi dello stesso disegnatore, hanno quasi tutti la stessa grafica, che poi si diversificano un po', così hanno però sembrano gli occhi grandi, cioè, ma cosa che invece in Italia è molto diverso. Quindi diciamo che per in Italia, uno in Occidente, sì, in Italia, diciamo, si fa fatica a distinguere, cioè tu dici questo disegnatore o l'altro, tra disegnatori diciamo fumettisti giapponesi, diciamo per noi perlomeno abbiamo più difficoltà a capire sì, i tratti diversi. Sì, penso di sì, perlomeno non per l'appassionato, l'appassionato riesce a distinguere anche il pelo nell'uovo comunque, ecco, però. Ma il grosso pubblico italiano ha conosciuto i manga tramite gli anime, cioè le versioni dei cartoon. Sì, sono identiche oppure sono diverse da quello che viene stampato? No, no, sono le stesse cose. Stesse identiche. Sono le stesse, poi ce ne sono di quelle che vengono anche spurgate. Per esempio anche i cartoni, per esempio Lupin III, veniva... Noi siamo molto legati, perché Radio Fuji. Veniva censurato in certe parti, perché era in Giappone, casomai c'erano delle scene un po' audaci, e che qui in Italia forse potevano essere giudicate. Poi c'è anche un filone manga che è Europe, cioè che è occidentale, nel senso c'è il manga italiano, il manga americano, eccetera, che sono così. Adesso ma le consideri imitazioni un po'? Adesso modaiole? Io quando vado a fare i corsi di fumetti nelle scuole elementari o medie, o anche sono andato anche all'Istituto d'Arte a farle dei corsi, sia di cartoni animati che di fumetti. C'è il 90% dei ragazzi che lavora con uno stile manga, cioè si ispira a quello, perché legge quello, ok? Cioè, poi c'è qualcun altro che fa anche altre cose, cioè, vedono quello, vedono solo quello lì, cioè, non vedono altre cose. Quando gli chiedi anche tu conosci, non so, appunto Ugo Pratt, conosci Alex Raymond, quello che ha inventato Flash Gordon, per dire che è uno, non dei, qualsiasi. Uno qualsiasi. Ma anche gente che è ancora viva, capito? Non leggono molto quel genere, il cartone, cioè il manga. Ma il manga classico sono i Transformer o anche qualsiasi altro personaggio? Ce n'è. Ma sapete com'è venuta l'invasione? Allora, prima è successo con i cartoni animati. Se una casa di produzione vuole fare una proposta di un nuovo cartone, cosa fa? Manda il cosiddetto demo, no? E ti manda le cose con due o tre storielle brevi, ti fa vedere così che genere di animazione, che genere di storia, eccetera, eccetera. Poi ti dice: sì, ci piace, ok, allora fateceli, no? E allora ti dicono: benissimo, però facciamo questo costa tanto, sono costo, ci sono dei costi. Loro cosa hanno fatto? Non mi ricordo il primo, cos'è stato? Qual è stato il primo? Ufo Robot, forse, non me lo ricordo. Hanno mandato, la casa di produzione ha mandato qualcosa come 25 episodi, no? Da 25 minuti l'uno, e hanno detto: trasmetteteli. Se piacciono ve ne mandiamo, gratis, ve li diamo. Se come piacciono, pusher. Sì, se vi piacciono ne abbiamo degli altri. Proprio esattamente, l'operazione dei pusher. Figurati, la Rai si trova 25 trasmissioni da 25 minuti l'uno, gratis, di un genere completamente nuovo, chi è che avrebbe detto di no? E sono andati, è stata l'invasione, dopo li hanno tutti voluti, e addirittura dopo c'è stata tutta l'operazione di merchandising dietro, che loro dovevano solo fare la trasformazione dei testi delle scatole, perché avevano già tutto, non dovevano produrre niente, c'era già tutto pronto in Giappone, perché quindi era già roba vecchia, c'era una strategia ben definita di invasione dei poi mercato, dopo c'è stata tutta la coda, perché dopo hanno cioè, la miriade di personaggi che c'è in Giappone, che qua non abbiamo idea di quello che è. Quindi invece sul versante lettore, tu dici che lì leggono tutti questi fumetti, eccetera. Invece in Italia, non dico i manga, in generale, molto diciamo meno. Che i fumetti, soprattutto per un pubblico giovane, dai, diciamo, bambini e ragazzi, leggono poco i fumetti. Leggono i fumetti, mentre invece mi sembra che il pubblico si sia aumentato come età. Siano più persone, diciamo, che hanno oltre i 40 anni, che sono oggi i lettori più fedeli dei fumetti. Sì, della carta. Ecco, sì. Quindi questo è lo confermi. Cioè in Giappone c'è proprio questa... È vero, prendi anche per esempio Tex. Tex vive molto dei vecchi lettori. il ragazzo, il ragazzino, il bambino, così, sì, legge fumetti, però dedica molto meno tempo di quello che potevamo dedicare noi, parlo della mia età, di quelli degli anni 50, 70, 60, 70, che c'era quello come divertimento, oppure andavi fuori a giocare, a divertirti, così, ma in casa avevi il fumetto, la televisione, i cartoni animati ce n'era rari, c'era. In Giappone c'è uno smodato, c'è un quantitativo di pennarelli che in Italia si trovano raramente, no? Che riproducono il segno del pennino, del pennello, della cosa. Quando troviamo un collega che va in Giapone, oh, mi prendi qualche pennarello, che si trovano in Giappone, sì. E non arrivano da noi. Ce ne sono pochi, no? Vabbè. Allora, ci sono dei supermercati là, che sono la favola del disegnatore. Non sto scherzando. Supermercati, adesso non ho idea di quello che può essere Bologna, però un medio supermercato, non il grande, no? 12 piani però di cartoleria. No, a Bologna ne abbiamo tanti, eh? E in uno sono andato lì a comprare tanta roba, di pennarelli. 12 piani di cartoleria. A un certo punto mi hanno detto, ho chiesto una cosa, mi hanno detto, ce l'abbiamo nell'altra succursale, dove di fronte altri 8 piani. C'è una cartoleria di 20 piani, ma non il negozio di tre stanze. Ma questo fa riflettere su che cosa fanno i giapponesi, cioè scrivono, tengono molto alla grafica, alla calligrafia, al segno, cosa che noi non abbiamo questo tipo di cultura. È interessante. D'altra parte noi siamo Fujiko, quindi guardiamo a testa alta. Ma detto questo, noi ringraziamo Claude, perché davvero è stata una chiacchierata, credo, interessante. Dopo Claude sull'arte del fumetto in Giappone, veniamo invece all'arte italiana di Gianni Rodari, che tutti conosciamo come noto uomo delle filastrocche, molto spesso banalizzato nei sussidiari e nelle antologie della scuola. In realtà è un personaggio di grande profondità culturale e intellettuale, e quest'altro Rodari è stato ben disegnato e raccontato anche nelle sue poesie dalla professoressa docente universitaria Maria Grazia Ferrari. Sentiamo l'intervento che abbiamo già presentato in pillole la volta scorsa, oggi riprendiamo sempre con poesie, filastrocche e tanti pensieri non per bambini, non solo per bambini ma anche per adulti. Anche i grandi a scuola vanno tutti i giorni di tutto l'anno. Una scuola senza banchi, senza grembiuli né fiocchi bianchi. E che problemi quei poveretti a risolvere son costretti in questo stipendio. Fateci stare, vitto, alloggio, un po' di mare. Sono arrivati gli anni 50, lo colpisce tutto l'aspetto sociale del lavoro in Italia, lo colpisce il caporalato, guarda caso, il caporalato. Non si mette a fare un discorso teorico sul caporalato, ci scrive una filastrocchina, proprio piccola piccola. Sul diretto di Campovasso c'era un signore grasso, grasso, tutti i piedi, e lui seduto sopra il suo cuscino di velluto, e si covava il suo cuscino come un uovo di oro zecchino. ed è il ritratto del caporale, è il ritratto dello sfacelo di questo mondo sociale che non riesce a diventare giusto. Poi diventeranno anche filastrocche e i ragazzini si divertiranno, ma ancora una volta rileggiamoli. Filastrocca corta corta, il porto vuol sposare la porta, la viola studia il violino, il mulo dice mio figlio è il mulino, la mela dice mio nonno è il melone, il matto vuole essere un mattone e il più matto della terra, sapete cosa vuole? Vuol fare la guerra. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma è una cosa ormai tarda. No, questa vena surrealista di Rodari è una vena antica che compare già nel 46. 46 siamo subito dopo la guerra. Rodari esce anche lui dalla Resistenza, è tornato a Varese, stava cominciando a lavorare per l'Ordine Nuovo di Varese che doveva avere degli intenti anche educativi, ha riaperto la Prealpina, il giornale tipico varesino, e lui scrive anche racconti per la Prealpina, lo farà in un modo molto timido dicendo beh dovevo pur sbarcare il lunario. Io vi leggerò un raccontino breve, ma se lo leggiamo bene capiamo che il tema politico, il tema del dopoguerra e il tema surreale si stanno già mescolando insieme. Sono i temi del grande Rodari. Il raccontino è intitolato Il lago va in vacanza ed è del 46 ed è stato pubblicato sulla Prealpina ed è un godimento. Sentitelo. Rimaneva sveglio tutte le notti e non cessava mai neppure per un istante di cantare malinconicamente. Guardava le prealpi che gli stavano di fronte, intonava le canzoni montanare, stella alpina, rifugio delle neve, montanara. Forse aveva il desiderio di andare in montagna. E invece non poteva muoversi, era costretto a rimanere come sempre al suo posto. Era un povero lago sacrificato all'ingrato compito di fare da sentinella. Una sera però, dopo la mezzanotte, smise di cantare e cominciò a piangere disperatamente, ad agitarsi senza sosta, far vibrare l'aria nebbiosa con lunghi gemiti e strazianti. Allora i cittadini corsero in piazza e sentito il discorso del sindaco che sottolineava la legittimità del desiderio di un lago onesto che compiva da anni senza interruzione il suo servizio di prendersi un po' di riposo, venne unanimemente ritenuto opportuno di concedere al lago malinconico una bella licenza da passare in montagna a sciare. Con un buon compromesso, dopo tanto discutere, però in modo collaborativo, di sostituirlo provvisoriamente per il tempo sufficiente con recipienti d'ogni genere, piscine, vasche, bagni, bicchieri, ditali. La mattina dopo il lago se ne andò in licenza, un mese più 2 giorni di viaggio. Era tanto allegro mentre saliva le chiome soleggiate e cantava ancora, non più le canzoni nostalgiche, cantava Bandiera Rossa, forse per far piacere al sindaco che aveva fatto tanto per lui. 46, siamo nel 46. Avanti! Oh, alla riscossa, bandiera rossa, finalizza. Bandiera rossa, bandiera rossa, bandiera rossa, trionferà. Poi che noi vogliamo la terra, che vedere rubato, lasciato, ci chiamate malfattori, male fabbriche potenti che abbiamo costruito e ci hanno imprigionato. Ora noi vogliamo guidare, vogliamo le fabbriche, vogliamo la terra, si parlerà delle esplorazioni lunari in orbita nello spazio, ha confermato il successo, poi arriveranno gli americani, la luna, quella luna che Rodari ha cantato tante volte, diventa familiare e nello stesso tempo diventa inquietante. E allora sentite, sulla luna per piacere non mandate un generale, ne farebbe una caserma con la tromba e il caporale. Non mandateci un banchiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di uscieri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ha da essere un poeta sulla luna dal lunare, con la testa nella luna. Lui da un pezzo ci sa stare. Abbronzate tutte chiazze, pelle rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella con un latte, tutta notte sopra il tetto con i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella con un latte, che fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tin tin tin, raggi di luna, tin tin tin, baciano te al mondo nessuna. Questi temi fondamentali di Rodari, che sono anche legati all'utopia, e non per niente il Don Chisciotte, il suo personaggio privilegiato. A Don Chisciotte e ai suoi mulini a vento ha dedicato una poesia, anche questa così poco adatta ai bambini e tanto adatta agli adulti, dal famoso Don Chisciotte di Rodari. O caro Don Chisciotte, o cavaliere della triste figura, girasti il mondo in cerca di avventura, con Ronzinante, Sancho, il tuo scudiero, sempre pronto a combattere senza paura per ogni causa pura. Tu, con le ossa rotte, nobile Don Chisciotte, in sella rimontavi e lancia in resta tornavi a farti rompere la testa. In cuore abbiamo tutti un cavaliere pieno di coraggio, pronto a rimettersi sempre in viaggio, e uno scudiero sonnolento che ha paura dei mulini a vento. Ho letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliaco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancho c'è bisogno soprattutto di uno slancio generoso, forse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia Delma, Dulcinea del Toboso. E a te Sancho io prometto che guadagnerai il castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo Ronzinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Ma pensate anche quando scrive quelle poesiole che sono dedicate proprio alla grammatica e alla punteggiatura, pensate come vengono trasformate. Per esempio quella dedicata al punto fermo, che è intitolata Il dittatore, apparentemente per bambini, sentitela. Un punto piccoletto, superbioso e diracondo, dopo di me gridava, verrà la fine del mondo. Le parole protestavano, ma che grilli ha per il capo? Si crede un punto e basta, e non è che un punto a capo. Tutto solo, a mezza pagina, lo piantarono in asso e il mondo continuò una riga più in basso. E poi alla sua brava ironia, che vuol smorzare anche le punte polemiche, e allora interviene la vena giocosa, che è pure una vena surreale. Pensate ai bravi signori, no? Ridono tanto i ragazzi, e non c'è mica tanto da ridere. Sentitela. Un signore di Scandicci buttava le castagne e mangiava i ricci. Un suo amico di Lastrasigna buttava i pinoli e mangiava la pigna. Un suo cugino di Prato mangiava la carta stagnola e buttava via il cioccolato. Tanta gente non lo sa e dunque non se ne brucia. La vita la butta via e mangia soltanto la buccia. Giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima. Passo dopo l'altro, la stessa vita, e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni, e l'avvenire ormai è quasi passato. Giorno dopo l'altro. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Mundo sa.